Radio 24 Reportage. Uomini di carta. Da detenuti a Torino ad ambasciatori di buone pratiche in Argentina. Di Irene Zerbini. Ci sono passeggeri particolari seduti su questo aereo. 11.000 e rotti chilometri per esportare a Buenos Aires un'eccellenza italiana, costituita da loro stessi, che con le loro storie mai avrebbero pensato un giorno di diventare un modello per altri. Arrivo da una vita un po' brutta, ho avuto 13 anni di tossicodipendenza, ho fatto varie carcerazioni. Io a 14 anni sono stato espulso da tutte le scuole di Torino, proprio espulso. A scuola venivano sempre la polizia a prendermi perché avevo bruciato la macchina, avevo fatto delle prepotenze a qualcuno. E sta tutta nella biografia di questi lavoratori addetti alla raccolta della carta di Torino il tratto distintivo di questa delegazione. Fanno parte infatti della cooperativa Arcobaleno, che quando vide la luce negli anni 90 fu accolta con una certa diffidenza. Dicevano che ci lavoravano tossici, gente che non era buona a fare niente. Ed è vero, lavorano in Arcobaleno persone dal passato difficile perché si avvale di un modello di inclusione sociale. Infatti il 40% degli assunti proviene da situazioni definite problematiche e segnalate dai servizi sociali. A volte c'è chi è nel 40% per una virgola e c'è chi è non è nel 40% e dovrebbe esserci. È così, è la storia dell'umanità. Eccoli oggi gli ex detenuti, in prevalenza ex tossicodipendenti, che partendo da un contratto a tempo indeterminato e da un lavoro a tempo pieno, non solo si sono costruiti vite e famiglie quando la loro strada sembrava segnata, ma sono diventati ambasciatori internazionali, chiamati a mostrare ad altre realtà come si costruisce un modello di successo basato sulla carta. E gli abitanti del capoluogo piemontese tifano per loro e per i loro cestini gialli che si trovano ovunque. C'è gente che ci vuole veramente bene. Una volta ci dicevano: ah, ma sono drogati quelli rubano. Adesso ci danno le chiavi per entrare a casa loro, andargli a prendere la carta. Io al mattino esco, c'ho un mazzo di chiavi così. Sono già stati invitati in Tanzania, in Marocco, in Messico e ora a Buenos Aires, dove vengono ricevuti a braccia aperte dai cartoneros. Una figura quasi pittoresca che coi carretti malmessi e spinti a mano occupa gli ultimi gradini della scala sociale argentina. Los años 90 empezamos a juntare il cartone e il papel che per te è carta. Abbiamo cominciato a raccogliere la carta negli anni 90 sulle strade, quando la crisi e il neoliberismo avevano messo in ginocchio l'Argentina, racconta Luis Coria, che oggi dirige una delle cooperative nazionali del lavoro. Me quedé sin trabajo y empezamos a buscar el sustento diario del ritriti, della basura. Sì. Luis spiega che i cartoneros chiedono di essere considerati come esseri umani e non come un pezzo dell'arredamento urbano di Buenos Aires, un elemento divertente sulle foto dei turisti. Come parte del mobiliario delle città, diciamo che non abbiamo nessun valore. Sono 100.000, 9.000 solo nelle strade della splendida capitale, queste figure che imbarazzano i politici. Se andiamo fuori li vedi pure alle 2 o alle 3 di notte andare in giro ancora con i sigaretti. Porque quise mucho y porque me engañaron. A fine giro, aiutati spesso dai familiari, anche bambini, fanno fatica a spingere i loro 200 kg di carta. Li rivendono con accordi individuali a chi li paga 2 pesos al chilo, l'equivalente di pochi centesimi, in una città in cui il costo della vita è equiparabile a quello italiano. E la raccogli nella strada o nelle case la carta? Sta infilando le mani e le braccia in un bidone pieno di rifiuti indifferenziati questo cartonero. Il compagno ha sido muy amable porque no te hablan. Vergüenza. Non vuole parlare finché gli viene spiegato che questi italiani svolgono altrove la sua stessa attività. Io ho visto che ha aperto i sacchi per togliere quello che c'era dentro, al fondo del sacco c'erano le bottiglie di vetro tutte rotte. E ho notato gente lavorare addirittura senza guanti, con il rischio di tagliarsi, e tagliarsi in quella situazione lì vuol dire malattie su malattie. Marcelo Loto è un altro leader di una cooperativa di cartoneros e rimarca le differenze con la situazione italiana. Il cartone. Insomma, qui ciò che in Italia si dà per scontato dagli anni 90, cioè il sistema di incentivi, tasse dedicate e multe, appare una pazzia. La unica differenza è l'appoggio statale. E questo soprattutto sembra mancare in Argentina, il cambio di mentalità sull'interramento dei rifiuti. Nosotros acá estamos iniciando eso y es difícil. In Argentina è difficile perché i rifiuti finiscono in discarica e non si separano. Perfino un'università, quella di Quilmes, invita la cooperativa Arcobaleno per illustrare la realtà italiana in un convegno internazionale. La municipale raccoglie presso le famiglie la carta. Questa è la voce di Carlo Montalbetti, direttore di Comieco, quell'istituzione che in Italia riconosce incentivi ai comuni virtuosi. C'è anche il console Jacopo Foti a dar voce a un'ambasciata molto attenta alle istanze sociali. Le imprese italiane, che sono più di 250, quasi 300, non hanno mai abbandonato l'Argentina, anche nei momenti più difficili, anche dopo la crisi del 2001 dei bonds. A parlare è l'ambasciatrice italiana Teresa Castaldo. Gli imprenditori italiani, tutti, non solo i grandi gruppi, hanno sempre costruito asili e scuole, incluso i propri lavoratori in programmi di natura sociale, ci spiega. Anche perché l'Argentina, pur essendo un paese ricchissimo, presenta ancora un divario molto alto. 13 milioni di argentini in povertà e la soglia che la demarca qui è solo di 100 euro al mese. Questo secondo i dati dell'Università Cattolica Argentina. 2 milioni e 700 mila persone inoltre soffrono la fame. Cucinando che? Chorizo. Piegato su una griglia che in realtà è la rete arrugginita di un materasso, appoggiata a sua volta su due cerchioni e su un vecchio stereo, un cartonero sta cucinando una sessantina di salsicce per i colleghi torinesi, un graditissimo pasto fuori dall'ordinario. Un dia speciale. Istantanee che fanno riflettere i membri della cooperativa Arcobaleno, che di viaggi ne avevano fatti, in realtà economicamente povere, ma non si aspettavano questo grande divario nelle condizioni della popolazione di un paese ricco, almeno in teoria. Intorno, che girano le macchine di lusso, che ci sono altissimi grattacieli, tutto questo. Invece la cooperativa Arcobaleno cosa può imparare da loro e da queste realtà che hai visto? Beh, la cooperativa Arcobaleno, perlomeno noi che siamo venuti qua, a casa ci portiamo un po' di umiltà. Nemmeno il salario regge il confronto. 100 euro circa per gli argentini, più gli alimenti da portare a casa per le famiglie. Leche, azúcar, fideos, arroz, tomate, eccetera. E chi riceve queste cose si sente fortunato. Io mi sento tranquillo, mi sento bene nel lavoro. La prima volta che ho l'opportunità, grazie a Dio, di lavorare. È la prima volta che ho l'opportunità di lavorare, spiega questa donna che ha 40 anni, ha 5 figli e 3 nipoti. Con 40 anni, dove consigo lavoro? È il primo viaggio in cui mi commuovo costantemente, tutti i giorni. Hai pianto? Sì. Cosa ti ha fatto piangere? Ieri mi sono commosso mentre leggevano i nomi le madri di Plaza de Mayo e mentre giravamo intorno a questo obelisco. E i viaggiatori incrociano anche le ferite ancora aperte della dittatura militare, le madri di Plaza de Mayo, come Vera Vigevani Yarak, che a 90 anni li guida nella scuola della Marina di Buenos Aires, la terribile ESMA, teatro dei crimini degli uomini di Videla. I luoghi erano molti, purtroppo. Quello dove andremo nel pomeriggio è il più noto, è in mezzo al pieno centro della città, e lì sono passate 5.000 persone. Nella cooperativa Arcobaleno c'è anche Daniel Pittuelli, italo-argentino, torturato e imprigionato sotto il regime di Videla, ed è proprio lui a spiegare perché la giustizia abbia tardato anni. Il potere militare, anche dopo la dittatura, era forte e condizionava il governo, che era democratico, però era del Soy America Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar el viento. Io credo che rimanga nella memoria dei nostri colleghi, soprattutto di quelli più fragili, e diventi un'occasione per loro per sentirsi più pronti a superare le proprie fatiche. Ed è orgoglioso Tito Ammirati dei risultati della cooperativa che ha contribuito a fondare. Grazie all'inserimento lavorativo tutti si sono tenuti lontani da droga e spaccio, recidiva quasi pari allo zero. Una ricchezza che è diventata una risorsa da esportare, come riassume il responsabile culturale Giovanni Iozzi. E io ho sempre sostenuto che c'era una responsabilità più che era quella di raccontare alla città chi erano queste persone, che ora hanno le chiavi in tasca di tutta la città e prima era meglio l'avessero. Cioè questa roba, questo è un miracolo. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.